2024 di Enrico Pagliarini. Abbiamo davanti a noi una nuova puntata di 2024, come sempre benvenuti o bentornati. Questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Potete contattarmi scrivendo a 2024@radio24.it oppure scegliere Facebook, Twitter o LinkedIn. Come sempre tutta la nostra puntata, anzi più della nostra puntata che ascoltate alla radio il venerdì sera e la domenica all'ora di pranzo, venerdì tra le 22 e le 23, domenica alle 13:10. E oltre a questa puntata online trovate tutte le nostre interviste in edizione integrale nel nostro super podcast. Come sempre iniziamo da alcune notizie in breve selezionate durante la settimana. Digital News. Dunque, la prima notizia riguarda un attacco hacker molto diffuso e molto grave. Sapete che nelle ultime settimane, lo abbiamo detto anche nella scorsa puntata, molte società che si occupano di cyber security, anche le intelligence di mezzo mondo, stanno lanciando degli allarmi perché sta aumentando il numero di attacchi che vengono registrati in giro per il mondo. Allora, la notizia di questi ultimi giorni arriva in parte dalla Germania, in parte dalla Gran Bretagna e probabilmente potrebbe esserci qualche altra notizia nascosta, ancora qualcosa che non è uscito in giro per l'Europa. Allora, almeno 6 supercomputer di altrettanti centri ricerche, centri di calcolo in Germania e altri, secondo alcuni ricercatori, anche in Europa, hanno subito pesanti attacchi hacker e sono stati addirittura disconnessi da internet. Anche l'Archer National Supercomputing Service di Edimburgo in Scozia ha riportato attacchi simili. Però queste sono le notizie che sono circolate. Devo dire che non hanno avuto una audience molto vasta, anzi uno dei miei informatori, quando gli ho chiesto ma è vero che c'è stato questo attacco, ha fatto una pausa, poi ha detto non credevo fosse diventata di dominio pubblico. Allora, questa è una cosa piuttosto grave, stiamo parlando di centri di ricerca, centri di calcolo dove vengono fatte delle ricerche importanti e secondo le agenzie americane, questa è una notizia però della scorsa settimana, gli attacchi che vengono registrati negli ultimi giorni, o meglio, dietro ad alcuni di questi attacchi ci sono nazioni che stanno cercando informazioni sulle ricerche per il vaccino, per i vaccini contro il coronavirus. Non è detto che questo attacco, che secondo alcuni addirittura andava avanti da gennaio e se ne sarebbero accorti solo negli ultimi giorni. La Germania è ovviamente un paese dove c'è una vasta rete di supercalcolatori, in Italia ne abbiamo pochi, e quindi insomma 6 supercalcolatori che vengono messi offline in Germania perché hanno subito un attacco hacker sono, insomma, è una notizia piuttosto grave, piuttosto importante. Una notizia delle ultime ore arriva da Facebook e ha acquistato per, pensate, 400 milioni di dollari. Adesso è una cifra molto grande, ma non gigantesca per Facebook. Comunque ha comprato una cosa che uno, come dire, potrebbe, posso ridere, perché ha comprato una delle piattaforme più famose per la creazione e la condivisione delle GIF, cioè quelle immagini spesso animate che vengono utilizzate sui social network. Giphy si chiama questa società, verrà integrata, questo servizio verrà integrato in alcune delle applicazioni di Facebook, in particolar modo su Instagram. Avevano 400 milioni di dollari e hanno detto compriamo un po' di GIF. Gli Stati Uniti hanno esteso per un altro anno, in modo particolare la Casa Bianca, le restrizioni che colpiscono Huawei e ZTE. Stiamo sempre parlando di una querela che va avanti da molto tempo, parliamo di sicurezza nazionale. Gli Stati Uniti accusano Huawei e ZTE di essere troppo vicino al governo cinese e quindi le hanno bandite dagli Stati Uniti. Se ad esempio voi cercate uno smartphone Huawei negli Stati Uniti non esiste. Allora, in modo particolare qua stiamo parlando di infrastrutture di rete, non tanto di smartphone, però il divieto di vendita riguarda un po' tutto. Allora, resterà in vigore la possibilità per alcune aziende di chiedere permessi speciali per continuare a fare affari con queste aziende cinesi per garantire la connettività in alcune zone rurali dove ci sono attive in particolare infrastrutture di Huawei. Quindi in quel caso le aziende possono continuare ancora a fare business con Huawei, ma in realtà poi anche il governo sta dando contributi per cercare di sostituire le macchine con altre di altri produttori. È a causa di questo divieto che Google, ad esempio, non può vendere a Huawei e quindi gli smartphone di Huawei venduti anche in Europa sono privi delle Google Apps. E sicuramente questo è un danno non indifferente per Huawei, perché ovviamente molti consumatori scelgono di non comprare questi smartphone. Un'ultima notizia dagli Stati Uniti che riguarda sempre questa battaglia che passa attraverso la tecnologia tra il governo americano e quello cinese. Allora, TSMC, che è la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, che è il più grosso produttore di chip al mondo, produce per conto terzi molti dei chip che avete nel vostro smartphone, in alcune macchine, sono prodotti da questa società di Taiwan che ha aziende un po' in tutto il mondo, soprattutto in Cina. Allora, ha annunciato che costruirà una fabbrica in Arizona investendo 12 miliardi di dollari e producendo 1600 posti di lavoro nuovi. Ci metterà qualche anno, però sicuramente questa è una, politicamente parlando, una vittoria per l'amministrazione Trump. La Francia ha votato una discussa legge che obbliga chiunque online a rimuovere entro un'ora, pensate, entro un'ora, materiale legato o al terrorismo o alla pedopornografia. La multa in caso di inottemperanza a questa legge può arrivare fino al 4% del fatturato. C'è chi dice che è impraticabile, o comunque praticabile solo per le grosse aziende che hanno un presidio 24 ore su 24, e c'è chi dice che può essere addirittura usata come censura. Comunque c'è, almeno tra gli esperti della rete internet, un dibattito interessante in Francia. Questa legge, tra l'altro, istituisce una speciale procura digitale presso i tribunali. Parliamo di Nanit, una startup israelo-americana che produce sistemi di monitoraggio per quando i bambini dormono. Una delle cose più vecchie che conosciamo, cioè le radioline, ad esempio, che ascoltano il bambino mentre sta dormendo nella culla, sono una cosa che esiste da tantissimi anni. E però qui ovviamente questa azienda utilizza tecnologie smart. Ha raccolto 21 milioni di dollari finora, questa azienda ha raccolto 50 milioni di dollari. Veniamo all'Italia. Allora, prosegue la battaglia contro la diffusione illegale di materiale coperto dal diritto d'autore, in modo particolare nelle ultime settimane, ne avevamo parlato anche recentemente, di giornali e riviste. La Guardia di Finanza di Roma ha sequestrato 28 siti web e 8 canali Telegram che permettevano appunto di visualizzare e anche scaricare copie digitali di giornali e riviste. Questi gestori, che non sono ancora stati individuati, rischiano però fino a 4 anni di reclusione e una sanzione di oltre 15.000 euro. Parliamo di Eolo, che ha rilanciato in settimana la propria strategia di copertura con rete wireless, che oggi raggiunge già 6.000 comuni, e ha dato qualche dettaglio in più su come verranno spesi i 150 milioni di euro che aveva ottenuto come finanziamento dalle banche. Una cifra molto importante per quanto riguarda il territorio italiano. Saranno coperti altri 1.500 comuni, per lo più concentrati in Campania, Sardegna e Sicilia. In questo mercato del Fixed Wireless Access, che con un acronimo che non è proprio molto sexy si definisce FWA, è entrata anche Vodafone, che sfruttando la rete 4G propone collegamenti simili a quelle delle linee fisse, ma con un limite in questo caso, perché dopo i primi 200 giga di traffico la velocità verrà limitata. È una soluzione che viene offerta ovviamente nelle zone dove Vodafone non ha rete fissa e dove altri operatori come Eolo, Linkem e altri operatori locali storicamente fanno la parte più importante di questo mercato. Più tardi con Gianfranco Giardina, direttore del magazine digitale D-Day.it, parleremo di videochiamate, di videoconferenze. Con tutte le restrizioni e con tutto quello che stiamo vivendo, ci siamo chiusi in casa e si sono moltiplicate, sono esplose le comunicazioni video, ci si parla perché non ci si può incontrare attraverso una videocamera, attraverso lo smartphone. Però provate a pensare, ma vi vedete bene? Vi sentite bene? Quante volte dite ma non si sente niente oppure non si vede nulla? Però vi diamo comunque qualche consiglio. Ovviamente non possiamo, se siete in una zona dove c'è poca banda, beh, a quello possiamo far poco, però ci sono tanti trucchi, tanti suggerimenti che si possono dare. Parliamo spesso di startup, sono uno dei motori dell'innovazione. Ci sono varie previsioni sull'ecosistema delle startup che è molto importante anche in ottica di quella che viene definita ultimamente open innovation, quando un'azienda strutturata, un'azienda che magari ha una storia, grandi prodotti, grandi servizi, però fa fatica ad innovare, beh, la open innovation consiste nell'andare a parlare, a confrontarsi con le startup, magari integrando anche delle startup all'interno dell'azienda per magari favorire l'innovazione. Quindi le startup sono un ingrediente importante. Abbiamo sempre avuto problemi anche di finanziamento nel nostro paese. Comunque facciamo il punto con Emila Birashid, che è direttore di Startup Business. Da moltissimi anni segue questo mercato. Direi che lui seguiva le startup quando molti non sapevano nemmeno che cosa fossero le startup. Emile, bentornato a 2024. Ciao Enrico, grazie. Che cosa possiamo dire, Emile, sullo stato di salute? Che cosa sta succedendo al momento? Guarda, è naturalmente una sfida per tutti questo periodo. Le startup sono chiamate a rivedere i loro modelli di business, ad adattarsi al nuovo scenario che si sta formando. Le startup sono per loro natura abili a cambiare modello, ad adattarsi. C'è un termine noto a chi fa startup che è pivoting, cioè la capacità appunto di cambiare. In questo momento è un pivoting collettivo, un pivoting di massa quasi, e per questo io ho cercato un nuovo termine e ho trovato coviding per definire appunto questo momento. Bisogna sapersi adattare, farlo molto rapidamente, cercare di comprendere quali sono le nuove sfide, le nuove opportunità di un mercato in cambiamento e che per molti versi sarà un cambiamento permanente. C'è il rischio che diminuiscano gli investimenti? C'è chi dice che ci potrebbe essere un momento di ripensamento da parte dei venture capital? Oppure c'è anche il rischio che molte startup, un numero più elevato rispetto al normale di startup, debba chiudere? Il rischio c'è, ci sono molti rischi, però io credo che non ci sarà tanto un rallentamento generale quanto un cambiamento di direzione sia degli investimenti sia dell'innovazione. Stiamo vedendo anche in queste settimane in cui stiamo vivendo il lockdown che comunque arrivano notizie confortanti anche di round di investimenti chiusi da alcune startup, così come stiamo vedendo di startup che hanno saputo rapidamente cambiare il loro modello di business. Stiamo vedendo anche startup che sono nate proprio in queste settimane, stiamo vedendo startup che avevano un modello di business che si è rivelato vincente in questo particolare momento e che quindi sono di fronte alla necessità di gestire la loro crescita. Quindi ci sarà sicuramente un cambiamento. Non sono tanto sicuro che ci sarà un forte rallentamento, ci sarà un reindirizzamento anche degli investimenti. Prima di fare alcuni esempi, una notizia che tu hai dato su Startup Business, ovviamente sei sempre molto attento, parliamo di un round di finanziamento milionario per quanto riguarda l'Italia. Una startup ha preso più di 2 milioni di euro recentemente. C'è una startup che si chiama Mirta, che fa una piattaforma di e-commerce per gli artigiani, che a fine aprile ha chiuso un round da 2 milioni e mezzo. Però se su Startup Business abbiamo pubblicato anche round di investimenti di altro tipo, anche startup tecnologiche nel settore biomedicale o nel settore delle tecnologie più avanzate, le cosiddette deep tech. Ci sono stati dei round interessanti in questo periodo. Sì, non solo italiani. Comunque 2 milioni e mezzo sono una cifra importante. Alcuni esempi, giusto per concludere, su startup che hanno necessariamente rivisto il modello di business o comunque il modello sul quale erano nate per sopravvivere. Sì, appunto quello che dicevo, questo coviding, così come ho coniato e di cui ho scritto su Startup Business, si declina in vari modi. Ci sono startup che hanno capito che bisognava correre e cambiare modello di business. Ti faccio due esempi. Una è Mulan Group, che vendeva cibi pronti asiatici ai supermercati, quindi aveva un modello di business B2B, business to business. Oggi vende direttamente ai clienti finali, quindi ha saputo modificare la sua struttura implementando le dovute tecnologie per diventare business to consumer. Un altro esempio è una startup che si chiama Fit Prime, che aveva come business quello di gestire la prenotazione delle palestre da parte degli utenti. Con le palestre chiuse la cosa è diventata del tutto inutile, e quindi loro hanno deciso di lanciare un canale video in cui fanno vedere esperti di attività fisica che registrano questi video in modo che la gente a casa possa tenersi in forma. Questi sono due esempi di cambiamenti repentini in corsa, sì. Esattamente. Senti, e invece se due o tre esempi, quelli che vuoi, di startup che hanno dovuto gestire la forte crescita, che magari negli ultimi anni hanno anche in alcuni momenti faticato, ma il cui business è perfetto per questo momento. Sì, esatto, questa è un'altra delle sfide che rientrano nelle varie declinazioni del Covid, cioè l'aver scoperto di avere un modello di business che si adatta perfettamente a questo periodo. Due esempi di due startup italiane anche piuttosto note sono Supermercato 24 e Winelivery, che fanno consegne, la prima della spesa del supermercato, la seconda di prodotti come vino, birra e bevande, e loro si sono trovati in una situazione di crescere in modo esponenziale. E comunque anche quella è una sfida, così come quella di cambiare business, anche quella di gestire una crescita più forte di quella prevista. E poi ci sono le startup che sono nate in questo periodo, che stanno cogliendo questo momento per lanciare nuovi servizi e nuove opportunità. Tipo? Ma tipo ci sono alcune che si stanno mettendo a disegnare, progettare mascherine innovative, come per esempio il caso di iMask. Ci sono quelli che hanno iniziato a vendere prodotti per allietare le nostre serate in casa, come fa Cell Pizza, che vende kit per la preparazione della pizza. C'è un portale, per esempio, nato giusto qualche giorno fa, che aiuta i freelance che possono lavorare da remoto come designer, sviluppatori, software, a contattare o essere contattati da startup, aziende che possono aver bisogno dei loro servizi. Per cui esiste tutto questo approccio, questo cambiamento, questo lancio di nuove iniziative. Emile, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, a presto. Grazie a te Enrico e a tutti. Una delle parole che ci farà da guida per molti mesi, anni, alcuni dicono per sempre, speriamo di no, sarà distanziamento. Quante volte l'abbiamo pronunciata, sentita dire. Anche la tecnologia già oggi ci è di aiuto per fare cose a distanza, quindi per mantenere la distanza. Pensate a tutto quello che facciamo online, dalla comunicazione agli acquisti che facciamo online. Più tardi, come dicevo poco fa, parleremo di videochiamate, di videoconferenze. Ma la tecnologia potrebbe esserci di aiuto anche per mantenere le distanze in luoghi dove normalmente siamo vicini. Ci sono varie proposte in vari settori. In questa puntata accendiamo un faro sui braccialetti o cose simili. Ci sono molte proposte, alcuni sono prototipi, penso ad esempio a quello presentato dall'IIT, l'Istituto Italiano di Tecnologia. Invece un prodotto che verrà distribuito a breve, direi a partire da giugno, IK Multimedia ha presentato un braccialetto che si chiama Safe Spacer, colorato, è di plastica, si può pulire, molto sanificare, igienizzare molto velocemente. Ricordo che IK Multimedia è un'azienda italiana 100% italiana, una fra le poche aziende italiane ad avere avuto un successo globale nel mondo della musica. Alcuni prodotti di IK Multimedia sono delle icone per i musicisti, tanto che lo slogan dell'azienda è Musicians First, però si allarga adesso ad un altro settore approfittando di questo momento. Prima dicevamo delle startup che si devono riconvertire anche molto velocemente, quindi in IK Multimedia hanno avuto un'idea di fare questo Safe Spacer. Che cos'è e soprattutto come funziona? Enrico Iori è il fondatore dell'azienda. Diciamo, il dispositivo è presettato affinché una volta indossato riconosce la distanza in maniera molto precisa tra due bazzanelletti dello stesso tipo e produce un allarme che può essere con una vibrazione, con un allarme acustico oppure visuale. La tecnologia che usiamo si chiama Ultra Wide Band, che è una tecnologia di tipo molto sofisticato e permette una misurazione molto accurata con una risoluzione diciamo di 10 cm. Non ha bisogno di infrastruttura, se uno vuole può fare dei settaggi, ma l'idea è stata di fare una cosa molto semplice e non invasiva dal punto di vista della privacy. Ma non potevate utilizzare la tecnologia Bluetooth invece che ultra wide band? Allora, noi abbiamo fatto, quando abbiamo fatto la ricerca dei vari tipi di tecnologie che si potevano usare, dai risultati è emerso che il Bluetooth assolutamente non è preciso, non è stato fatto per quei tipi di applicazioni lì. È possibile avere una certa misurazione della distanza, ma parliamo di risoluzioni di un metro o più. E tra l'altro dovrebbe essere un sistema, ha bisogno di un qualche tipo di infrastruttura centralizzata, e direi anche che ci sono i rischi che vada in crisi in questo tipo di applicazioni quando ci sono molti device che cercano di misurarsi l'uno con l'altro all'interno di un, diciamo, di uno spazio, chiamiamolo ristretto, ecco. Allora, ovviamente voi avete in testa un'applicazione, un set di applicazioni particolari, luoghi pubblici dove le persone magari sono tante e devono mantenere le distanze, che ne so, piscine, palestre, per esempio il tema delle palestre sarà un bel problema, oppure le aziende, immagino che un destinatario di strumenti di questo genere, del vostro, di tanti altri che sono sul mercato, che saranno sul mercato, siano le aziende. Anche in questo caso che cosa si può fare? Perché si può ovviamente decidere a quale distanza comincia a suonare e a segnalare che uno si sta avvicinando ad un altro lavoratore, ad un collega, ma che altro si può fare? Se viene usato all'interno degli ambienti del lavoro, ci sarà un'app che può permettere all'ufficio personale o all'ufficio di sicurezza di associare l'ID unico del dispositivo al nome della persona. E ovviamente tutta la parte di consenso a questo punto viene gestito a livello delle policy aziendali. Allora, di fronte a proposte come quelle dei braccialetti per mantenere la distanza, una delle prime reazioni potrebbe essere: ma le persone non sono in grado di controllarsi a vicenda e mantenere la distanza. Beh, però pensate, in alcune situazioni, in alcune aziende, quando si lavora, questa può essere una esigenza. Tutt'altro capitolo è quello dei bambini. Ho sentito che ci sono alcune ipotesi per far utilizzare queste cose ai bambini, ma in quel caso mi sembra che si potrebbe anche fare a meno. C'è stato chi ha scritto in quel modo si abituerebbero i bambini al controllo, cioè li abituiamo a che sia normale un controllo fatto con la tecnologia. Il ragionamento è molto sottile, ma penso molto, molto giusto, molto intelligente. Comunque è un problema su cui magari torneremo, perché effettivamente è un problema. Il MIT di Boston, il Massachusetts Institute of Technology, ha valutato varie applicazioni per fare il cosiddetto contact tracing e ha premiato Immuni, cioè l'applicazione che verrà utilizzata in Italia, come una delle migliori per quanto riguarda sicurezza dei dati e affidabilità. Anche il garante per la privacy italiano ha dato il proprio ok a questa applicazione, diciamo non ufficiale, non definitivo, ma il garante Soro ha detto che non rileva nessun problema. Allora, ricordiamo che l'app non è ancora disponibile, dovrebbe esserlo verso fine mese. Attorno a questo, diciamo ad ore, nei prossimi giorni, Google e Apple metteranno a disposizione gli aggiornamenti software, quindi bisognerà dare tempo anche alle persone di fare l'aggiornamento del proprio smartphone. Poi questa applicazione, come del resto le altre che sono sviluppate sul framework, si dice, sullo schema, sulla tecnologia di Apple e Google, saranno disponibili. Molti esperti, molti tecnici sono in grandissima attesa del codice sorgente. Dovrebbe essere reso disponibile appena appunto l'app sarà pronta, quindi poi tutti andranno a fare le loro analisi. In questi ultimi giorni sono stati diffusi altri dettagli che confermano il funzionamento di questa applicazione. L'app non raccoglie dati personali, non raccoglie dati GPS. Due smartphone con la stessa app installata si scambiano codici anonimi e tengono una lista a bordo del telefono. Quindi se una persona che ha l'app risultasse positiva al coronavirus dopo aver fatto il tampone, sarà questa persona a dare il consenso affinché l'app comunichi che è ammalato a tutta la catena di persone con cui è entrato in contatto, cioè è stato vicino. Andatevi a riascoltare le ultime puntate, perché abbiamo raccontato anche che queste applicazioni sono in grado di, prima dicevamo del Bluetooth nel caso dei braccialetti che non è molto preciso, nel caso invece delle applicazioni sullo smartphone ci sono delle tecnologie, perché lo smartphone è governato dal software. Google e Apple hanno messo a disposizione delle tecnologie che permettono di capire con una certa precisione l'intensità del segnale Bluetooth e quindi capiscono la posizione, cioè la vicinanza del contatto. Quindi se io sono stato vicino a quella persona riceverò indietro un codice e il mio telefono riconoscerà quel codice come uno fra quelli con cui sono stato in contatto. Sarà solo il mio telefono a riconoscerlo, proprio perché sul mio telefono c'è la chiave crittografica che ha generato quel codice che corrisponde a quel contatto. Quindi questo è molto importante per quanto riguarda la privacy. Sono stati svelati altri dettagli. Ad esempio, dovremo inserire la provincia quando accendiamo l'applicazione, e questo servirà alle autorità sanitarie per fare una sorta di mappa. Non è che sia un gran dato che ci preoccupa più di tanto. Le autorità sanitarie sapranno anche il numero di notifiche spedite, cioè sapere se ci sono state due notifiche su un territorio oppure 1000-2000, può essere utile per fare delle previsioni anche su eventuali terapie intensive. Allora, ricordiamo, ma l'abbiamo detto più volte, che ovviamente l'applicazione, l'app sullo smartphone è un pezzetto di tutto uno schema, un'organizzazione che deve, lo sappiamo benissimo, deve ancora trovare completamento. Diciamo che l'applicazione serve a poco se poi non si possono fare i tamponi, no? Perché io vengo avvisato se qualcuno risulta positivo, quindi non bisogna pensare che con l'applicazione si risolva tutto, però direi che almeno dal punto di vista tecnologico si è trovato un buon equilibrio, anche poi grazie a Google e Apple che hanno guidato e creato un imbuto verso il quale si va, comunque per la tutela dei dati, anzi diciamo tutela, la protezione, perché non c'è nessun dato personale che finisce sull'applicazione. Pensate che nel dibattito molto acceso tra alcuni esperti c'era anche chi, e c'è ancora chi, con buone ragioni dice: no, avremmo dovuto fare un sistema centralizzato per avere una mappa e un grafo della diffusione del virus, e avremmo dovuto anche attivare la funzione GPS, perché ad esempio, giusto per fare un esempio, se uno si incontra con un altro che ha l'applicazione e risulta positivo, quello che ha l'applicazione viene avvisato, ma se uno va in una casa di cura a trovare un parente risulta positivo, nessuno sa che è stato in quella casa di cura, e quindi nessuno avviserà. Se nessuno ha lo smartphone in quella casa di cura, nessuno sarà avvisato. E in effetti questo ha un insomma, ha senso, è basato su un fondamento. Comunque adesso parliamo di altre tecnologie che stanno aiutando ad affrontare l'epidemia e stanno affrontando a tenere sotto controllo in qualche modo. Parliamo di una piattaforma utilizzata dalla Regione Veneto per analizzare dati che già erano a disposizione. Dario Buttitta, il direttore generale Pubblica Amministrazione e Sanità di Engineering. Benvenuto, grazie di essere con noi. Grazie, dottor Pagliarini. Che cosa permette di fare questo software? Allora, intanto va detto, appunto, noi abbiamo affiancato il team della Task Force della Regione Veneto e di Azienda Zero, che sono stati assolutamente determinanti e trainanti sia come vision che come professionalità. La piattaforma tecnologica, questa piattaforma di biosorveglianza, mette insieme una serie di dati anagrafici e clinici e clinico-sanitari che sono già in possesso delle regioni e delle USL per motivi di cura, quindi sono tutti dati interni alla, come dire, alla regione, e attraverso una tecnologia, che è quella su cui si poggia la nostra piattaforma di biosorveglianza, aggrega dati rivenienti da fonti eterogenee, consentendone da una parte una visualizzazione ma anche un'analisi e anche quindi, se vogliamo, la possibilità di prendere poi una serie di decisioni in tempo reale, perché la forza del dato è anche, come dire, quanto è caldo questo dato, quanto è in tempo reale per prendere delle decisioni in quei frangenti. Stiamo parlando dei primissimi giorni di marzo, lei si immagina che la velocità nel prendere le decisioni fosse assolutamente un atu fondamentale. Ci fa degli esempi di decisioni che sono state prese grazie a queste informazioni che sono state aggregate da questa piattaforma? Ma guardi, io credo che in questa immane tragedia che c'è stata, forse se vogliamo tirarne fuori un dato positivo, è che finalmente si è compreso la forza dell'informazione e del dato. Ora, un dato in quanto tale è sempre estremamente importante. Le faccio un esempio banale: sapere di avere un paziente positivo al tampone è un dato fondamentale, importantissimo, ma è un dato che di per sé può dire anche poco. Sapere che invece questo paziente, questo signore positivo al Covid, vive in un appartamento con una moglie e due figli, già fa capire che forse ci sono tre persone che hanno un potenziale rischio di contagio. Sapere che questa famiglia vive in una villa isolata o in un condominio con 300 persone dà ulteriori informazioni sul livello di rischio. Se qualcuno lavora in una fabbrica con altre 200 persone o è un medico o un'infermiera in un ospedale, ne dà ancora altre. Ecco, di per sé questi dati hanno avuto un senso perché li abbiamo messi assieme, li abbiamo correlati e abbiamo consentito quindi di prendere delle decisioni di andare a fare i tamponi in quell'appartamento dove c'erano tre persone o in quella fabbrica dove c'erano 200 persone. Quando dico noi abbiamo, intendo la Regione Veneto, che ha avuto la guida assoluta e totale nella strategia di cui le sto parlando, però è uno strumento per prendere delle decisioni potentissimo, uguali per il caso ampiamente discusso delle case di riposo. Si è visto che c'erano allo stesso domicilio, apparivano come dire n casi di positività, e poi ci si è accorto che era una casa di riposo. Da quello la decisione poi di andare a tenere sotto controllo tutte le case di riposo. Quindi uno strumento potentissimo in tempo reale che ha consentito di prendere all'uomo, in questo caso ai vertici di Regione Veneto, delle decisioni molto importanti che poi hanno portato anche dei grandi benefici. Ci fa capire qual è il vantaggio di avere tutti questi dati su una piattaforma integrati? Perché l'esempio che ci ha fatto prima, semplifico molto, ma per farci capire, abbiamo fatto un esempio di contact tracing, cioè il tracciamento dei contatti sulla base di interviste che si fanno normalmente, e tu, quando appunto trovi una persona positiva al coronavirus, gli chiedi: ma dove vivi, con chi abita con te, dove sei stato, e quindi si cerca di ripercorrere dalla serie di contatti che questa persona ha avuto, cosa che nell'intenzione dell'applicazione che arriverà anche sui nostri smartphone a fine mese, inizi di giugno, si dovrà fare, poi vedremo anche quante persone la utilizzeranno. Ecco, nel vostro caso, e quindi pensando a questa esperienza, a questa piattaforma, ci fa capire qual è stato il vantaggio di avere tutto integrato? Perché uno potrebbe, come dire, il contact tracing si faceva e si continua a fare in tanti posti del mondo a mano, no? Beh, allora, sicuramente la straordinaria velocità con cui questo è stato possibile, anche il fatto che una serie di informazioni sul contact tracing, ripeto, la nostra non è un sistema di tracciamento, semmai si andrà a integrare quando il governo fornirà l'app con l'app appunto scelta, però è stato assolutamente fondamentale perché ha accelerato e soprattutto ha consentito di mirare il tracciamento di queste persone, almeno il monitoraggio di queste persone, perché, ripeto, andare a sapere che una persona lavora in una fabbrica con 100 persone è un'informazione estremamente importante. Se questa lei ce l'ha in tempo reale, devo dire che è un vantaggio in termini di reattività per la decisione, e questo sicuramente ha aiutato. Uguale il fatto di sapere che lei, se i suoi vicini sono due persone di 80 anni potenzialmente a rischio e che hanno magari già delle patologie, se lei riesce a vedere automaticamente a video che questi vicini hanno 80 anni, hanno delle cronicità, delle patologie che li rendono ancora potenzialmente più vulnerabili rispetto al virus, beh, questo è qualcosa di estremamente importante che magari con un tracciamento singolo è più complicato. Le decisioni che sono state prese possono anche essere decisioni automatiche? No, nel nostro caso assolutamente no, cioè si forniscono dati che consentono alla Regione Veneto, agli epidemiologi della Regione Veneto, agli esperti di Azienda Zero e al team del Presidente Zaia di prendere le decisioni del caso. Sono scelte assolutamente, noi forniamo semplicemente lo strumento che può coadiuvare nel prendere una decisione corretta. Però diciamo, tecnicamente sono, cioè alcune di queste decisioni potrebbero anche essere automatizzare, insomma, mandare messaggi a tutte le persone che sono state in contatto con o che vivono assieme a una persona che risulta positiva. Assolutamente sì, cioè il concetto del può essere automatizzabile è una scelta umana, nel senso che l'uomo che decide appunto di adottare una tipologia di servizio di questo tipo, e questo è assolutamente fattibile, la tecnologia come dire lo consente. Quello che è stato fatto all'atere e quindi collegato con la nostra piattaforma e attraverso degli strumenti di modellazione di modelli epidemiologici è stato fatto quello di riuscire in forma predittiva di capire per esempio la carenza di posti di terapia intensiva e quindi riuscire con 15, 20, 30 giorni di anticipo a capire in base all'andamento dell'epidemia che tipo di potenziamento dei posti in terapia intensiva bisognava fare. Quindi è uno strumento predittivo ma sempre legato a una decisione umana. Poi è automatizzabile chiaramente nelle forme in cui i modelli organizzativi delle regioni lo richiedono. Una cosa del genere potrebbe essere utilizzata in tutte le regioni, cioè i dati che voi utilizzate sono presenti in qualche modo in tutte le regioni e quindi basta aggregarli. Adesso capisco che io sto semplificando, perché basta aggregarli quando si parla della pubblica amministrazione è una parola un po' troppo semplice, però si può fare ovunque. Allora, la piattaforma, ripeto, si basa su una tecnologia che aggrega dati da fonti eterogenee. Siccome questi dati sono presenti in qualche forma in tutte le regioni e anche a livello centrale, il fatto di aggregarli può avere un effort più o meno, come dire, oneroso, ma è assolutamente, sono tutti dati che sono di pertinenza delle regioni già esistenti nelle regioni in qualche forma. Senta, una soluzione di questo genere ha delle somiglianze con altre piattaforme che aggregano dati anche in altri ambiti, che ne so, industria 4.0, cioè il principio è poi sempre quello, o no? Il concetto è molto simile, tenga presente che la tecnologia sottostante alla nostra piattaforma di biosorveglianza viene usata diciamo nell'ambito delle smart cities e praticamente aggrega tutti i dati che provengono dal territorio e dalla sensoristica, quindi il mondo IoT per intenderci, dalla sensoristica che ci sono sul territorio, li aggrega per rispondere poi alle esigenze di chi quella città la guida. Quindi il concetto che lei accennava poc'anzi è assolutamente corretto, cioè è un tipo di tecnologia, in questo caso sottostante, che può essere assolutamente adottato anche in segmenti di mercato molto diversi da quello della sanità. Qua sopra abbiamo messo sopra però le competenze cliniche sanitarie molto forti che sono presenti nel nostro gruppo, affiancando i colleghi di Regione Veneto e di Azienda Zero. Dottor Buttitta, grazie per essere stato con noi, buon lavoro e buona serata, grazie. Grazie a lei e ai suoi ascoltatori. Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungermi attraverso Facebook, LinkedIn oppure Twitter o scrivendo a 2024@radio24.it. Vi ricordo che tutte le nostre interviste sono disponibili in versione integrale nella nostra edizione Super Podcast online sul nostro sito internet, attraverso la nostra applicazione, attraverso la nuova applicazione Radio Player Italia oppure le principali piattaforme audio. Adesso è con noi Gianfranco Giardina, direttore del magazine digitale D-Day.it. Gianfranco, bentornato a 2024. Grazie mille e bentrovati a tutti gli ascoltatori. Allora Gianfranco, io ho visto le guide che tu hai fatto online molto interessanti per cercare di dare dei consigli per migliorare la qualità delle videochiamate, delle videoconferenze, chiamatele come volete. Molto spesso ci si accontenta oppure non si fa caso e si dà per scontato che si senta male, si veda male. A volte questo dipende da una cattiva connessione e su quello poco possiamo fare. A volte dipende dalla piattaforma che stiamo utilizzando e anche su quello magari poco ci possiamo fare, perché magari è quella scelta dall'azienda, dalla scuola oppure dal gruppo di amici che vogliono utilizzare quella piattaforma. Però ci sono un sacco di cose che invece possiamo migliorare a casa nostra, e io partirei dall'audio, visto che noi facciamo la radio, almeno io faccio la radio, ma tu sei spesso con me alla radio e l'audio per noi è una cosa importante. Iniziamo da un consiglio semplice. Il consiglio è molto semplice: usiamo una cuffia o un auricolare. Perché questo? Perché se noi usassimo il microfono, per esempio, del notebook, che è all'interno del notebook e spesso vicinissimo agli altoparlanti, il sistema deve continuare a proteggersi dal ritorno del segnale, cioè dal fatto che la nostra voce rientri, o meglio, la voce del nostro interlocutore che viene riprodotta dagli altoparlanti, rientri nel microfono e ritorni come eco agli interlocutori e generi il cosiddetto effetto Larsen, quindi quel fischio fastidioso che ogni tanto capita di sentire. I computer, ovviamente i programmi nei computer, sono attrezzati per far sì che non ci sia questo effetto, quindi lo cancellano, ma per cancellarlo una comunicazione che è full duplex, quindi tutte e due possono parlare contemporaneamente nello stesso momento, deve diventare half duplex, cioè come walkie-talkie, quasi passo e poi parla l'altro. Cioè se io sto parlando, l'altoparlante automaticamente chiude i segnali audio che arrivano dall'esterno, quindi io quando parlo non capisco che cosa mi sta dicendo il mio interlocutore. Si vede anche nelle trasmissioni TV quello che è successo, che qualche interlocutore parla, il conduttore dice no aspetta, voglio farti un'altra domanda, e l'interlocutore va avanti a parlare perché non ha assolutamente sentito, proprio per questo motivo, perché non sta parlando con un auricolare o con una cuffia, non ha sentito che l'interlocutore dall'altra parte lo sta interrompendo. Ecco, per questo motivo è sconsigliabile usare microfono e speaker integrati nel PC. Gianfranco, diamo un altro consiglio: usare gli auricolari, anche se sembra strano dirlo, col filo. Ah beh, certo, quello è importantissimo, perché In realtà non tutti lo sanno, ma gli auricolari Bluetooth nascono, o anche le cuffie Bluetooth, nascono per la funzione viva voce delle telefonate. Quindi per fare delle telefonate. Noi sappiamo che nelle telefonate la voce ha la qualità telefonica, così detto, cioè è tagliata in frequenza, non ha tutte le frequenze, è la classica voce telefonica. Se noi usiamo gli auricolari Bluetooth, il microfono manda verso il computer e quindi verso i nostri interlocutori un segnale che è già tagliato in frequenza, come se fosse una telefonata, quindi l'audio si sente male. E siccome l'audio si sente male, ovviamente i nostri interlocutori non possono capire bene quello che stiamo dicendo. Se invece usiamo un auricolare a filo, il vecchio auricolare a filo che magari troviamo anche nella confezione di qualche smartphone, la comunicazione è assolutamente perfetta e quindi si sente bene, ovviamente con la qualità del piccolo microfono magari che c'è sul filo dell'auricolare, che non è granché, ma è sicuramente molto meglio che usare anche l'ultimo modello di auricolare Bluetooth super sofisticato che fa sentire benissimo a noi, ma quello che noi diciamo arriva agli nostri interlocutori tagliato in frequenza, quindi con una qualità sicuramente peggiore. Allora passiamo al video. Che cosa utilizzare? La videocamera, la webcam del computer portatile, la webcam del desktop, oppure usare lo smartphone? Che cosa è meglio? Possiamo fare molte cose. Diciamo che potremmo usare anche direttamente uno smartphone, anche per fare tutta la nostra videoconferenza. Il difetto qual è? Che il display dello smartphone da 4, 5, 6 pollici al massimo è spesso troppo piccolo per vedere magari il mosaico con la faccia di tutti gli interlocutori, una slide se c'è una presentazione, uno schermo condiviso, e quindi sicuramente va bene per chiacchierare con gli amici, ma potremmo quasi farlo anche solo a voce in quel caso, ma non va bene per esempio per una riunione di lavoro o per una lezione a distanza. In quel caso bisogna usare un display grande, quindi un display del computer. E la prima cosa che viene in mente, soprattutto per chi ha ovviamente i portatili, ma anche alcuni fissi, penso per esempio agli iMac che hanno la webcam integrata, è quella di usare appunto la webcam integrata nel computer. Cioè già è pronta, non c'è niente da collegare, non c'è niente da fare, sembra la soluzione migliore. Per motivi che non sono completamente chiari, in realtà le webcam integrate nei computer, tutti, anche i migliori, hanno una qualità pessima, e questo purtroppo è evidente. Cioè quando c'è tanta luce e il soggetto è ben illuminato, ma questo succede normalmente all'esterno più che in casa, la qualità comunque diventa accettabile, ma se per caso la luce non è perfetta si salvi chi può. Quindi in questo caso il consiglio è quello di usare o una webcam esterna, e in questo momento purtroppo è molto difficile da trovare perché sono andate assolutamente a ruba dopo chiaramente l'emergenza Covid, oppure quella di utilizzare uno smartphone collegato al PC. Allora si può usare, ci sono diverse, tantissime modalità, noi abbiamo fatto anche delle guide per utilizzare lo smartphone, anche per esempio un vecchio smartphone che non si usa più, usarlo come webcam. Perché? Perché la fotocamera e la videocamera, quindi integrata all'interno degli smartphone, direi qualsiasi smartphone, è nettamente superiore alla qualità delle webcam integrate nei PC, e questo fa sì che si abbia un netto miglioramento. La modalità più semplice è quella di comprare una delle diverse app che sono disponibili nei marketplace. Io ne ho provata una, si chiama EpocCam, ma non è l'unica, che permette il collegamento sia wireless che USB al computer di uno smartphone. Quindi si compra questa app che costa meno di 10 euro, quindi è accessibile per tutti e costa comunque meno di una webcam, ecco, quindi è molto meno di una webcam, e permette di collegare uno smartphone, quello attuale che abbiamo o anche uno vecchio muletto, quello che abbiamo scartato, e di tenerlo lì come webcam per avere una qualità di immagine nettamente migliore. È una cosa che io consiglio fortemente. Sempre per la serie consigli banali ma molto utili, quando si fa una sessione di videoconferenza, di una videoriunione ad esempio, c'è sempre qualcuno che si trova dietro una finestra. E anche questa è una cosa da non fare, giusto Gianfranco? E questo è quello che invece succede incredibilmente nella maggior parte dei casi, ma non è poi così incredibile. Questo va come riconsiderato nella logica della buona composizione dell'immagine, no? Che comunque fa parte del vestito con il quale noi ci presentiamo ai nostri interlocutori. Cioè, a tutti piace essere in ordine, e anche la qualità della composizione, la qualità dell'immagine fa parte dell'ordine, il nostro vestito col quale ci proponiamo ai nostri interlocutori. Allora, la finestra dietro va benissimo perché mi aiuta a vedere le cose che ho sul tavolo rispetto per esempio a una finestra davanti al tavolo sul quale sono, che sarebbe fastidiosa perché avrei la luce totalmente contro, ma in realtà se è inquadrata dalla webcam crea un grosso problema, cioè la fonte luminosa dietro inganna la webcam, che poi se è quella integrata è anche spesso di cattiva qualità, e trasforma tutto quello che sta davanti a quella finestra in una sagoma nera, noi compresi. Quindi si vedono queste sagome nere molto scure dove non si riesce a vedere il labiale, non si riesce a vedere la mimica facciale, si vede una sagoma nera e si vede una bella finestra dietro. Ecco, la finestra va sempre evitata, meglio se abbiamo una finestra davanti che garantisce solitamente una luce diffusa se non abbiamo raggi solari diretti. In seconda istanza accettiamo, ma con qualche magari altro piccolo provvedimento che possiamo prendere, anche una finestra laterale. Perché dico l'accettiamo? Perché la finestra laterale poi tenderà a creare una grande differenza di luminosità tra il lato destro e il lato sinistro del viso, e quindi in questo caso magari l'aggiunta di un piccolo faretto portatile, piccolino, LED anche a batteria, è quello che ci vuole per riuscire a riempire, fare il cosiddetto fill-in, e quindi riempire un po' di luce la parte scura del viso, e quindi dare un'immagine che resta sì tridimensionale, ma comunque più bilanciata. La gamma dinamica dei sensori delle webcam integrate è molto corta, è molto piccola, quindi non sono capaci di far vedere contemporaneamente fortissime luminosità e lasciare la leggibilità sulle parti scure. Quindi dobbiamo avere una luminosità più diffusa possibile. Per i fortunati che vanno a fare le conferenze in giardino, quindi o hanno un giardino o un balcone, un terrazzo, eccetera, eccetera, per lo stesso motivo mai mettersi dove il sole batte direttamente, perché dove il sole batte direttamente abbiamo dei punti di luce fortissimi, come se fosse la finestra dietro alle spalle, e dei punti di ombra altrettanto marcati, e questa gamma dinamica luce-ombra le webcam la trattano in maniera scorretta. È meglio avere una luce, un'illuminazione più uniforme possibile. Allora, devo ammettere che anche io in queste settimane ho imparato molte cose, mi sono sempre preoccupato di farmi sentire, adesso anche io, come tantissimi altri, mi devo preoccupare anche di farmi vedere, e quindi ho imparato anche, vabbè, oltre che parlando, ho questo privilegio di poter parlare spesso con te Gianfranco, ma anche leggendo, vedendo le guide che tu hai fatto, che hai pubblicato, quindi ricordiamo su dday.it ci sono state vari approfondimenti su questo tema, quindi vi invitiamo ad andarli a leggere o a guardare quando sono in formato di video. Sempre a proposito di come ci si vede, come ci si mostra, un'altra cosa importante è la posizione del nostro viso rispetto alla videocamera, alla webcam o alla, se usiamo lo smartphone, al nostro smartphone appunto utilizzato come videocamera. Molto spesso c'è gente che si inquadra dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto, oppure di sbieco, uno guarda da un lato invece che guardare in camera, tante piccole osservazioni, tante piccole accortezze che rendono la nostra immagine migliore. Allora, anche da questo punto di vista, quali sono i consigli, Gianfranco? Un grande classico è infatti quello della webcam integrata nel PC che è appoggiato sul tavolo, si magari piega anche un po' verso all'indietro, diciamo, il coperchio del notebook perché ci inquadri bene, ma in realtà ci inquadra in quel caso dal basso verso l'alto, dipende ovviamente dall'altezza del tavolo, l'altezza della seduta, ma normalmente dal basso verso l'alto, il che ha due difetti, tre anzi. Uno, ci riprendiamo il mento invece del viso, e quindi è comunque una visione non piacevole, come se il vostro interlocutore fossero pigmei e noi dei giganti, e quindi non è sicuramente una cosa naturale. Il secondo difetto è che la stanza diventa romboidale, anzi trapezoidale, scusate, di colpo, perché ci sono le cosiddette linee cadenti, cioè quando una camera inquadra non in bolla, quindi non perfettamente orizzontale, incomincia a far sembrare le linee verticali tutte storte, e anche il soffitto diventa un trapezio. E poi il terzo difetto è che spesso ricreiamo la logica della finestra messa dietro che abbiamo detto prima. Perché? Perché sul soffitto, inquadrando il soffitto, sul soffitto spesso ci sono i lampadari e le fonti di luce. Se noi inquadriamo, per esempio, in un collegamento serale o al buio o in una stanza non illuminatissima in cui abbiamo acceso il lampadario, se inquadriamo il lampadario, ecco che creiamo la stessa situazione della finestra posteriore, quindi una situazione di eccessiva illuminazione non sul soggetto che ci interessa far vedere, quindi la camera si adeguerà alla luce dello sfondo in qualche modo scurendo noi stessi, il nostro viso, quindi il soggetto che invece è importante che noi facciamo vedere. Io onestamente sconsiglio in questo caso l'utilizzo dei filtri che quasi tutti i programmi offrono, cioè la sfocatura dello sfondo. Cioè la sfocatura dello sfondo usatela se proprio c'è un disordine tale per cui non voglio far vedere ai miei interlocutori quello che c'è dietro, ma crea comunque un alone, perché è costruita sì con l'intelligenza artificiale, con tutto quello che si vuole, ma non c'è una camera tridimensionale che permetta di staccare completamente il soggetto dallo sfondo, è fatto a livello algoritmico, e questo non dà sempre risultati buoni, si crea attorno alla persona un alone fastidioso di zone di sfondo che non sono completamente sfocate, e questo a mio avviso non fa che peggiorare la percezione delle immagini, quindi consiglio è disattivate sempre questi filtri. Sicuramente potremmo fare un accenno o comunque richiamare la vostra attenzione allo sfondo, che cosa abbiamo dietro. In questi periodi abbiamo visto di tutto nelle case dei nostri amici, dei nostri colleghi di lavoro, con altre persone con cui dobbiamo fare delle video riunioni. Allora, ci sono delle piattaforme, ad esempio Zoom, che permette di fare lo sfondo virtuale, cosa che personalmente non mi piace tantissimo, però è comunque una soluzione e si possono fare anche varie cose. Quelli più attenti si mettono un telo verde, il famoso green screen, per fare uno sfondo virtuale, però qua andiamo magari un po' sul difficile, però uno, che ne so, magari riesce a trovare un pannello, se lo mette dietro, così non fa vedere mezza casa. Un'altra domanda che ti vorrei fare, Gianfranco, nel caso in cui utilizziamo o direttamente lo smartphone per fare una videoconferenza, oppure usiamo lo smartphone come abbiamo detto poco fa, come videocamera del nostro computer. Ecco, in entrambi i casi lo smartphone sarebbe meglio non tenerlo in mano. Dove lo appoggiamo? Dove lo mettiamo? Ecco, questo è una bella domanda, nel senso che lo smartphone appoggiato sul tavolo diventa la sublimazione assoluta dell'inquadratura dal basso verso l'alto, perché è pure piccolino. No, bisogna in quel caso prendere un piccolo treppiede da tavolo. Ne esistono di tanti tipi, ne esistono di super compatti, che quindi poi una volta che non li sto usando tornano nel cassetto, e quindi non danno nessuna fastidio, non si pensi ai treppiedi fotografici, quelli alti un metro, ecco, proprio sono dei piccoli treppiedini di 20, 25, 30 centimetri, quello che basta per portare lo smartphone all'altezza degli occhi. Gli occhi nella fotografia, ma anche nel video, sono l'elemento più importante quando si parla di ritrattistica, quando si parla di persone. Il fuoco va sull'occhio e l'inquadratura deve essere all'altezza dell'occhio. E questo è quello anche, tra l'altro, che garantisce in linea di massima il fatto di avere delle linee poi verticali abbastanza diritte. L'altro aspetto da tener conto, se parliamo di composizione, quindi di come andiamo a comporre l'immagine, è molte volte io vedo molte persone che prendono la propria faccia e la piazzano perfettamente al centro del quadro. Quindi facciano come idealmente una belle diagonali e in mezzo mettono la testa. Ma in realtà il busto e soprattutto le braccia sono molto importanti per la mimica, quello che abbiamo sopra la testa non è affatto importante. Quindi una buona composizione, fateci caso, ma non sempre viene fatto, prevede che la testa sia al limite alto del quadro, quindi non sia assolutamente al centro del quadro, ma sia praticamente quasi a tagliarci i capelli in alto. Ecco, quello è sicuramente la composizione migliore. Camera all'altezza degli occhi, questo vale anche per le webcam integrate. Quindi, se abbiamo una webcam integrata in un notebook, o prendo un sollevatore di notebook che può avere anche una valenza in termini ergonomici, perché poi fa meglio alla cervicale guardare un monitor davanti a noi che un monitor basso sul tavolo, adesso che stiamo lavorando, in molti stiamo lavorando da casa, oppure passo al sistema un pochino più tradizionale ma che funziona sempre, di prendere un paio di volumi di enciclopedia, che tanto oramai si usano molto poco, e si mettono sotto al notebook per tenerlo sollevato. Le webcam esterne hanno lo stesso destino, o si mettono su un treppiede o si appoggiano sopra il monitor, quindi sono già un po' più altini, ma sempre è consigliabile tenerle all'altezza del viso. Allora Gianfranco, abbiamo direi dato, ci hai dato molti consigli, quindi direi che possiamo anche concludere questa nostra chiacchierata. Vorrei richiamare l'attenzione di chi ci sta ascoltando e vorrei sentire quanto tu sei d'accordo che questi consigli non riguardano solo professionisti, manager, penso che riguardino tutti, l'insegnante, quando facciamo riunioni di lavoro, questa era una penna che mi era caduta, anche le chiacchierate che facciamo con gli amici. Pensate, quando siamo in un salotto noi ci rivolgiamo al nostro amico, ci rivolgiamo a lui, cerchiamo di farci sentire, non è che andiamo a 5 metri o dietro ad un muro, cioè siamo in una situazione in cui ci facciamo sentir bene, ci facciamo vedere bene, non è che ci copriamo il viso, no? E anche quando siamo in modalità remota dobbiamo cercare di, nel limite del possibile e anche nel limite tecnologico, di riprodurre al meglio quello che noi facciamo quando siamo dal vivo. Quindi dobbiamo cercare di farci vedere bene e farci sentir bene. Quindi ripeto, non è una cosa che riguarda solo super professionisti o super manager, riguarda un po' tutti, direi. Non solo vale per tutti, ma devo dire la verità, abbiamo riscoperto dopo un po' di tempo che tutto sommato se non se ne faceva un grande uso la videocomunicazione, le videochiamate, perché non potendosi vedere di persona, anche il potersi rivedere, io ho fatto, credo come molti, alcune pranzi o alcune cene con il notebook appoggiato sul tavolo, collegato in sincrono con degli amici per chiacchierare e cenare insieme. Poi alla fine arrivava sempre la domanda: ma perché non ti vedo? Perché magari ovviamente l'ottica del notebook è pensata, della webcam nel notebook è pensata per un utilizzo personale, non per magari inquadrare un tavolo intero e la famiglia. E anche qui vediamo come per esempio uno smartphone che ha l'ottica ipergrandangolare in molti casi può prestarsi molto meglio per una cosa di questo tipo, soprattutto se davanti alla camera non deve starci una persona sola ma una famiglia intera, i nonni che devono vedere i nipoti, eccetera eccetera. E quindi ci sono tanti casi che abbiamo riscoperto. Se posso, Enrico, darei un ultimo consiglio importante. Sì, volentieri. Banale, così banale che spesso non viene seguito: pulire la lente. Perché soprattutto quando parliamo di smartphone, ma anche le webcam e anche i PC, ricordiamoci che nel PC, per esempio nel notebook, il coperchio si apre e si chiude spesso mettendo il dito proprio là dove e c'è la webcam sotto il vetro che magari non è neanche così visibile. Ecco, il vetro è un vetro che sta davanti all'obiettivo. Una ditata sul vetro non si vede perché ovviamente non è a fuoco, ma rende l'immagine flu, quindi rende l'immagine poco contrastata, con i neri che non sono neri perché diventano grigio scuro, con i bianchi che non sono bianchi perché diventano grigio chiaro, e quindi un'immagine veramente deteriore. E qualcuno dice, sai, la mia webcam non è granché. Poi magari prende il pannetto, quello col quale puliamo gli occhiali, e lo passa su questo vetro una volta sola e di colpo l'immagine diventa quantomeno, non sarà risoluta, ma quantomeno diventa ben contrastata con i neri neri e i bianchi bianchi. Ecco, ricordatevi che questa operazione dura un secondo, mezzo secondo, ed ha degli effetti veramente positivi sulla qualità dell'immagine. Bene Gianfranco, grazie per essere stato con noi, per questi consigli. Da domani molti di noi faranno delle videoconferenze migliori rispetto a quelle di oggi. A presto, buon lavoro, grazie. Grazie mille e un saluto a tutti gli ascoltatori. Beh, consigli molto utili, anche perché tutti noi stiamo, diciamo molti di noi stanno imparando in questi giorni. Io stesso mi sono sempre preoccupato, come dicevo poco fa, di farmi sentir bene, e invece adesso mi devo preoccupare anche di farmi vedere bene. E devo dire che partecipavo a molti eventi dal vivo, mentre oggi partecipo a molti eventi virtuali, e quindi la mia scrivania, la mia postazione, dove c'erano prevalentemente dei microfoni, si è trasformata con altre cose. Io utilizzo ad esempio lo smartphone come videocamera per buona parte dei motivi che abbiamo detto poco fa. Una soluzione che merita di essere citata perché in poco spazio e con poco, diciamo, si soddisfano molte delle condizioni che abbiamo descritto poco fa, ad esempio quella di Joby con il Gorilla Pod, o altre soluzioni comunque di Joby, che è un treppiede a cui si possono accoppiare uno o due LED, e quindi in quel modo risolvi un po' tutto. Io lo uso su consiglio di Gianfranco Giardina e devo dire che in quel modo tu hai il treppiede per tenere sullo smartphone, le luci che ti illuminano il volto, e soprattutto hai la possibilità anche di, visto che adesso cominciamo anche un pochettino a poterci muovere, è una soluzione che ti puoi portare in giro, magari da una casa all'altra, da una postazione all'altra, al lavoro, a casa o nella seconda casa, eccetera eccetera. Bene, concludiamo questa puntata di 2024. Come sempre, scrivetemi per suggerimenti, come sempre dico, io leggo tutti i vostri suggerimenti, alcuni poi, come sentite, li mettiamo anche in pratica, quindi rispondiamo alle vostre domande, alle vostre sollecitazioni con le interviste che mandiamo in onda. Non sempre questo è possibile. Comunque, 2024 radio24.it, oppure Facebook, oppure Twitter, oppure LinkedIn. Ci sentiamo la prossima settimana, il venerdì tra le 22 e le 23, domenica alle 13:10, oppure in questa versione super podcast. Devo anche dire che stiamo lavorando ad un podcast parallelo, pensando un po' più al futuro, che si intitolerà 2024 più 10. Trovate maggiori informazioni e maggiori dettagli entro pochi giorni sul nostro sito internet radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, appuntamento alla prossima settimana.